Denari, denari, denari, parole, parole, parole. Ascolta me a Seroshani con due di denari. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ogni volta inizio mese, tutti insieme pronti in fila, ci troviamo nel piazzale dell'ufficio postale. Ho il libretto nelle mani, ora arriva il mio momento. C'è lo Stato che mi paga, come sono contento. Oh, chissà come avranno intonato felicemente questa canzone a Casale Monferrato, caro Mauro, buongiorno a te. Buongiorno Deborah, buongiorno. Temevo che questo attacco sui pensionati riguardasse me, vedevo che mi fissavi. Ma smettila, figo, sai che prima che ci andiamo io e te sai quante puntate di Due di Denari dobbiamo fare ancora? Però dobbiamo parlare di pensioni, Sì. Oggi abbiamo e una poi bella anche partenza, domani. Una bella partenza nutrita su questo argomento. Allora, partiamo con questo valzer della pensione, è un valzer, sì, una mazurka, sì. Che cos'è? Adesso sta a guardare che mi tempesteranno di precisazioni sulla natura del ballo. Troviamo subito il musicista. A Casale Monferrato che cosa è successo? Che il signor Mario, come ogni mese, era andato a ritirare i suoi 640 euro di pensione in sella al suo solito triciclo, dice qua l'agenzia. Il triciclo solitamente è quello piccolino che usano i bambini, insomma sarà andato in bicicletta fino alle poste. Nel tragitto di ritorno aveva smarrito però l'assegno, appunto, con la pensione, con tutto il denaro. Aveva smarrito forse il portafoglio con dentro tutto il denaro, non so, comunque quello che è, si era, insomma, perso, ha perso la pensione e se n'è accorto mentre faceva la spesa al supermercato. È arrivato il momento di pagare e si è accorto, appunto, di non avere la provvista. La commessa, sensibilizzata su questa disavventura, ha lanciato l'allarme e si è scatenata una gara di solidarietà. Gli agenti della polizia municipale hanno ripercorso il tragitto per aiutarlo nella ricerca. Si è mosso anche il popolo web, aiutato evidentemente dalla commessa del supermercato, con foto e passaparola, sperando di contare sulla condivisione e sulla buona volontà della collettività. Non è stato necessario però fare un gran tam-tam, perché a ritrovare l'assegno è stato un signore a circa 300 metri dalla caserma. Nel giro di un'ora Mario è tornato ad essere felice. Il dettaglio non irrilevante di questa vicenda, sì, è che Mario, cioè il protagonista che perde la pensione, ha 81 anni, chi glielo ritrova è più o meno un coetaneo, quindi due diversamente giovani che si sono aiutati l'un l'altro. Aveva capito perfettamente la natura del problema la persona che ha ritrovato, appunto, l'assegno dell'amico. Bene, tutto questo intanto per dare due informazioni di servizio, non una ma due. La prima domani che cosa c'è in edicola? La prima con il domani sole? Non perdetevi il Sole 24 Ore in edicola, perché insieme al Sole 24 Ore c'è una guida alle pensioni 2020, quindi non solo le regole per andare in pensione, ma anche le regole per andare prima in pensione, la con pensione le anticipata, varie quota 100, opzione donna e così via. Trovate tutto riassunto nell'abituale oramai prodotto che viene dato all'inizio di ogni anno con il Sole 24 Ore. Il punto sulle pensioni, pensioni 2020, domani con il Sole 24 Ore. Un piccolo punto, un piccolo contributo lo diamo anche qui da Due di Denari, perché forse avete sentito di questa vicenda dei conguagli sbagliati sulle pensioni. Allora si è creato un certo allarme, come è facile intuire. Che cosa sarebbe successo? Perché abbiamo interpellato direttamente l'INPS e cercato di farci spiegare tutta la vicenda. Ma anche il sindacato dei pensionati aderenti alla CGIL, da cui era partito l'allarme, appunto, con un articolo sul secolo XIX. Tra l'altro è un sindacato che fa anche un po' fatica in questo momento a quantificare la platea degli interessati a questo problema in questo momento. Allora, partiamo con le notizie, diciamo, più puntuali, più di interesse generale. Sì, è vero, ci sarebbe una quota di pensioni in pagamento sbagliata, però questa quota, spiega l'ufficio stampa INPS, è molto circoscritta, si parla di circa 100.000 posizioni. Gli sbagli sarebbero di pochi euro, anche inferiori, diciamo, alla decina di euro, per il pagamento delle ultime pensioni, delle ultime mensilità. Questi errori saranno corretti con i prossimi pagamenti, quindi da febbraio, da marzo in avanti. La vicenda discende da un blocco delle perequazioni, cioè dell'adeguamento all'andamento del costo della vita, che era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale per una frazione di questi pensionati che avevano diritto a un conguaglio è stato fatto un errore. Però l'ufficio stampa INPS, e lo ripeto per maggiore tranquillità di tutti quanti, ci conferma che si tratta solo di 100.000 o poco più posizioni e che l'errore sarà rimediato nelle prossime mensilità. E tra l'altro anche lo speech GL dice proprio aspettiamo il 1 febbraio, perché l'INPS si è impegnata a rimborsare, quindi faremo anche noi poi una verifica per monitorare che questo rimborso venga effettivamente effettuato, e quindi eventualmente, se sarà necessario, torneremo anche noi sulla vicenda. Allora, non parliamo però di pensioni questa mattina, ma parliamo di italiani al volante e in questi giorni, insomma, di problemi da affrontare, di informazioni da conoscere, ce ne sono davvero tante in ballo. Prima cosa, parleremo di code in autostrada, vi ricordate quelle sulla A14, peraltro ieri si sono anche ripetute, e quindi dobbiamo ritornare su questo caso perché, come sapete, Autostrade per l'Italia si è impegnata ad indennizzare tutti gli intrappolati della A14 della scorsa settimana. Sì, ma... Ecco. È partita la corsa all'ecobonus per auto meno inquinanti, sarebbero molto necessari in questi giorni perché molte città si stanno di nuovo fermando, stanno impedendo la circolazione di auto appunto che non avrebbero i requisiti per poter circolare. Questa vicenda sta interessando Torino, Roma, qualche città dell'Emilia Romagna, anche Milano in parte, per cui dobbiamo ritornare anche su questo tema. È ora di fare la macchina nuova a casa e quindi vediamo a quanto ammontano questi bonus. Pagamento del bollo, ce ne abbiamo pure lì di cose, sì, da raccontare? Certo, perché con la manovra si è deciso che si passa a pago PIA, e allora non si paga più con le vecchie modalità ma si paga con queste altre. Poi, aspetta, non ti dimenticare, c'è la famosa RC della famiglia. Ah sì, pure quella, certo. Eh sì, però questa qui è stata rinviata, diciamo, alla fine di febbraio. Così come è stata rinviata anche l'eventuale sanzione se una famiglia viene pizzicata a viaggiare senza il dispositivo antiabbandono nel seggiolino del bambino. Sì, perché lì era successo un pochino di pasticcio, diciamo così, per usare un termine elegante. Abbiamo avuto modo di elencare tutta una serie di notizie che nascondono un pasticcetto dentro, se vogliamo. Insomma, allora, adesso oggi ce non la credo... facciamo a fare tutti questi argomenti stamattina. La trasmissione dovrebbe durare, diciamo, 4 o 5 ore, però noi abbiamo voluto portare qui il massimo esperto presente, secondo me, a livello europeo perlomeno. Ma direi anche mondiale del codice della strada e delle vicende che riguardano l'auto, che è un collega del Sole 24 Ore, e cioè Maurizio Caprino, che abbiamo invitato in studio. Maurizio, buongiorno. Bentornato. Ciao Maurizio. Eccomi qui, grazie. E salutiamo anche Furio Truzzi, che non è ancora collegato telefonicamente con voi, con noi in rappresentanza di Assoutenti, che è un'associazione dei consumatori particolarmente impegnata sulla risoluzione delle controversie fra italiani e trasporti di varia natura. Per tutti questi argomenti, per quelli che stamattina riusciremo a fare, non so, partiremo sicuramente da quelli più rilevanti a livello di cronaca, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. In alternativa tempestateci come sempre di messaggi al 349 238 6666, e ci fa particolarmente piacere se lo fate anche con la modalità vocale su WhatsApp. Caro Mauro, è la mazurka quella con la quale siamo partiti. Ci hanno scritto che era immediatamente, si trattava subito di una mazurka. Non hanno aspettato neanche un secondo. No, ma noi siamo contenti di avere subito questo seguito, certo, anche di esperti. Alcuni esperti, come sapete, li abbiamo in studio, altri li abbiamo al telefono e qualcun altro invece ci aiuta nel durante. Allora, io andrei, senza por tempo in mezzo, al giornale radio del risparmio, cara Deborah, sì. E poi sì, acceleriamo per restare nel tema della puntata, con però le molte cose. Però sempre nei limiti del codice della radio. Ci mancherebbe altro. Allora, giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Come fly with me, let's fly away. Guarda, magari ne diamo solo un paio di notizie, quelle che piacciono di più ai nostri ascoltatori. Parleremo adesso dello sciopero degli aerei. Io ti lascio invece la nuova multa che è stata appioppata dall'antitrust ad una importante compagnia di telecomunicazioni. Ad infieriamo tutti i giorni. Prima o poi ci toglieranno tutte le modalità per comunicare col telefono. Sarà un'iniziativa corale di tutte. Allora, tu dai praticamente una buona notizia e io una cattiva. Vai. Allora, c'è un parziale sospiro di sollievo per coloro che oggi avevano in programma di prendere un volo. Lo ricorderete, ieri vi abbiamo preannunciato annunciato questo sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo, che era previsto inizialmente di 24 ore. È stato invece ridotto a 4 ore. Partirà dalle 13, si concluderà alle 17. Lo ha stabilito con una propria ordinanza la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. La protesta riguarda i lavoratori delle compagnie aeree, di alcune compagnie aeree che adesso vi dirò, e anche di ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. E lo sciopero era stato proclamato appunto dalle organizzazioni sindacali di categoria. Riguardava appunto l'agitazione Alitalia, EasyJet, Air Italy, Alba Star, Blue Air, Volotea, Airnet Airlines e più il personale ENAV. Ma alle 17 oggi finisce tutto, quindi non dura per le 24 ore. Molto bene, piange anche oggi il telefono? E allora, anche oggi dobbiamo segnalare un'iniziativa dell'antitrust. Questa volta è una istruttoria che si è conclusa nei confronti di TIM. Sono state accertate dall'antitrust due violazioni al codice del consumo, quindi sono state irrogate sanzioni per 4 milioni e 800 mila euro. Perché? Perché la società non avrebbe fornito informazioni chiare, anzi non ha fornito, perché l'autorità ha deciso così, non ha fornito informazioni chiare e immediate nella promozione delle offerte personalizzate di winback. È una pratica commerciale che consiste nel cercare di recuperare un cliente perduto. Non erano informazioni chiare per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile rivolti agli ex clienti, e sono stati poi anche attivati dei servizi non richiesti. Mm-mm. E così è arrivata la sanzione. Sai chi ha presentato gli esposti che hanno portato alla multa finale? Allora, da una parte la società dei consumatori, cioè l'associazione Altro Consumo. E qui ce lo potevamo pure aspettare. Ma l'altra è stata una società concorrente, cioè Iliad, che ha presentato l'istruttoria, il reclamo, l'esposto, che poi ha portato all'istruttoria e alla sanzione dell'antitrust. Peraltro, in pratica la sanzione poi è divisa per due condotte sanzionate, per l'appunto, ma insomma ci ritorneremo eventualmente su questo argomento. Senti, apriamo anche lo sportello reclami, dai. Sì, dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Ma non avete vergogna a far pagare l'assicurazione obbligatoria alle casalinghe? Con tutto quello che fanno per i nipoti e per i figli, dovrebbe essere gratuita. La solita gabella italiana, uno schifo, è la solita gabella italiana, è uno schifo. Ci sono delle assicurazioni private che con poco di più a livello di spesa danno il triplo delle garanzie. Ma io faccio una proposta, no? Visto che c'è un'agenzia delle entrate che controlla che tutto sia a posto, che i cittadini paghino, perché non istituire un'agenzia delle uscite? Cioè un'agenzia che interviene immediatamente, controllata, che eroghi denaro a chi ne ha bisogno. Ma subito, no? Come quando li devi a loro, che cazzarola non te mola più. Lo stesso, facciamo una bella agenzia delle uscite pro persone che ne hanno bisogno, con tanto di controllo, che siano bravi, veloci, con le cifre giuste. Dai, bella agenzia delle uscite pro cittadini bisognosi. Beh, questa è una battuta che in realtà circola nell'ambiente fiscale, no? Sul tema dell'agenzia delle uscite, sì, magari non nei termini proposti dall'ascoltatore. Per ironizzare amaramente sulla lentezza dei rimborsi si dice, beh, d'altra parte gli uffici si chiamano delle entrate e non delle uscite. Però dico una cosa controcorrente, in effetti poi molte uscite non le vediamo, cioè il servizio sanitario di cui magari usufruiamo, piuttosto che la scuola alla quale mandiamo i nostri figli, la scuola pubblica o l'università statale, sono delle uscite per lo Stato, sì. Quindi sono anche dei ritorni in qualche modo, però è chiaro che non li vediamo, contabilmente non li vediamo. Poi sulla qualità e tempestività di tutto questo naturalmente possiamo discutere, come fa a discutere, hai sentito l'assicurazione casalinghe, esatto. C'è entusiasmo. Volevo precisare una cosa, poi che voi la percepiate come una gabella o meno, effettivamente con il raddoppio del premio che va pagato quest'anno rispetto all'anno scorso, qualcuno ha avuto anche un po' ragione ad essere rimasto rimasto perplesso. Ma a parte questo, ci sono anche molti quesiti rimasti in sospeso sul funzionamento e la modalità anche di rimborso che l'assicurazione appunto stabilisce, e che l'INAIL si è data disponibile appunto con noi a rispondere a tutti i vostri quesiti. Quindi, se volete, continuate a scriverci a duedidenari@radio24.it. Ieri abbiamo già raccolto moltissime domande, in queste ore proprio l'INAIL con i suoi esperti ci sta aiutando a darvi tutte le risposte del caso. E intanto un ascoltatore mi ha anche mandato la fotografia del triciclo anni 50, erano i mezzi che si usavano per lavorare, qualcuno li usa ancora evidentemente per circolare a Casale Monferrato. Beati voi che siete giovani e non li conoscete. No, io purtroppo me lo ricordo. Questi mezzi? Io me lo ricordo, ma secondo me si chiamava... Questo qui te lo ricordi tu? Sì, sì, ma si chiamavano... Questo? Ah, per questo non è motorizzato, perché io mi ricordo addirittura il motocarro che aveva tre ruote. Però siccome qui c'è Maurizio Caprino, che è il massimo esegeta del codice della strada e anche delle sue astruse definizioni talvolta, perché il codice della strada, non so, non dice semaforo, ma intersezione stradale semaforizzata. Quindi questo... Davvero? Esistono. Sì. Come dice il codice della strada, come lo chiama, semaforo? L'incrocio col semaforo. L'incrocio è un'intersezione. Quindi no, non puoi dire incrocio se parli col codice della strada. Ma allora, ho già capito che io interverrò pochissimo in trasmissione. Accendiamo la macchina, accendi il motore. Questi sono i Beatles e ho capito che all'inizio era una mazurka. Non me lo continuate a scrivere perché l'ho capito, lo so. Tra l'altro sono pure del centro Italia, vicino all'Emilia Romagna, dovrei anche conoscere queste dinamiche musicali. Chiusa era parentesi. Era una mazurka e invece è un valzer quello di ciò che entra in vigore e non entra in vigore quest'anno, perché facciamo è un tre quarti, insomma, un po' entra in vigore e un po' non entra in vigore. Maurizio, RC Famiglia, possiamo subito metterla da parte, perché quello sconto per cui la polizza RC Auto viene parametrata sul miglior guidatore della famiglia, sì. Vedo, guardami, ma ascoltami molto attentamente e bacchettami appena sbaglio. Sì. Allora, questo tipo di sconto partirà ma solo da marzo. Dal 16 febbraio. Ah, ecco, esattamente, vedi che già ho sbagliato. Da marzo parte la sanzione per chi viene pizzicato senza il dispositivo antiabbandono. Questo è il 6 marzo. Allora, dal 16 febbraio perché non parte subito? Perché la norma è assolutamente astrusa, poco attuabile, ci sono tanti passaggi tecnici che non funzionano, ne abbiamo scritto con Maurizio Azan sul Sole 24 Ore. E perché del l'ANIA 6. Magari, l'associazione delle compagnie, si sarà messa anche un pochino di traverso. Ma assolutamente sì, però diciamo che in questo caso si sono messi di traverso da soli, sono ostacolati da soli facendo una norma completamente indeterminata, quindi lasciando aperti tanti interrogativi, per cui oggettivamente l'IVAS non ce la fa ad afferrare un po' il senso e a dargli una coerenza col quadro, perché poi in realtà noi veniamo da un quadro che è analogo, cioè noi abbiamo dal 2007 la cosiddetta Bersani che contiene lo stesso principio, però lo contiene in maniera più limitata, nel senso che la Bersani dava diritto, come dicevi tu Mauro, a fruire della stessa classe del più virtuoso di famiglia, ma a patto che il veicolo entrasse nel nucleo familiare, quindi si trattasse di un nuovo acquisto, anche usato, comunque un qualcosa che si introducesse nel circuito, venisse dall'esterno, insomma, del perimetro delle polizze di famiglia, e a patto soprattutto che il mezzo fosse della stessa categoria di quello virtuoso, per cui l'auto del papà o della mamma che aveva maturato la prima classe poteva prestare la classe anche al figlio, a patto che il figlio avesse l'auto, cioè non sul motorino o sulla moto del figlio. Adesso invece è un tutto insieme appassionatamente che aumenta non solo i costi del sistema ma anche le incertezze. Tra le altre cose, l'altra estensione riguarda il fatto che possono esserci veicoli che sono già all'interno del nucleo familiare, quindi se ne parla in questo caso non dal 16 febbraio ma al rinnovo, cioè chiunque abbia la scadenza se la vedrà al rinnovo. Però sul rinnovo è un... aprono altri problemi, insomma. Rinviamola allora la questione. Ce lo segniamo per il 16 di febbraio. Per la primavera. E Maurizio tornerà il 16 febbraio a spiegarci pazientemente che cosa si può o non si può fare. Andiamo sulla A14, cosa dici? Beh, ci sarà una coda pazzesca come al solito sulla A14. Quindi saranno ben felici gli ascoltatori di accendere la radio e di ascoltarci, così li fomentiamo un attimo. Magari li invitiamo anche a chiamarci per capire se nel caso fossero rimasti già vittime di queste trappole nelle settimane tra Natale e Capodanno, magari hanno già preso l'iniziativa di andare a chiedere il famoso rimborso dei pedaggi, appunto, come Autostrade per l'Italia appunto si era impegnata a restituire. E anche qui i condizionali sono d'obbligo. Lo abbiamo intanto Furio Truzzi? È collegato telefonicamente con noi. Presidente, io non mi ricordo mai se Furio Truzzi è presidente di Assoutenti. Ma secondo me Marco Lombardo è presidente di Assoutenti. Chiediamoglielo direttamente. Dottor Truzzi. Secondo me ce n'è un altro di presidente, però. No, io a me corre l'obbligo di esserlo. Poi non so chi è l'altro. Quello precedente ero rimasta quello precedente, Furio. Sì, sicuramente ce n'è uno prima e ce ne sarà anche uno dopo. Ecco, al momento la carica. Al momento lo faccio io. Presidente, ecco. Allora sì, vai. No, volevo chiedere, appunto, abbiamo saputo che Autostrade si è resa disponibile a rimborsare, a risarcire, non so bene quale sia poi il termine giuridicamente più adatto, coloro che hanno subito disagi, ma solo nelle giornate 5, 6 e 7 gennaio, però le code proseguono. Sì, perché adesso si viaggia benissimo, direi che è uno splendore. Uno dice: cosa faccio oggi? Vado sulla 14, che faccio prima? Direi che questa situazione a 14 è veramente emblematica. Direi che è un po', per quanto attiene la mobilità, l'Ilva che riguarda l'industria. Scusate il paragone, ma siamo sull'Adriatico. E quindi mi è venuto spontaneo collegare questo disastro della mobilità al disastro industriale che stava dietro alla questione della siderurgia di Taranto. Prego. No, perché volevo chiedere, innanzitutto questo tipo di ristoro che Autostrade ha annunciato viene erogato perché noi abbiamo avuto già invece degli ascoltatori, dei lettori che ci hanno contattato, hanno detto noi l'abbiamo chiesto per giorni diversi in cui ugualmente siamo stati in coda, abbiamo subito dei disagi, ma ce l'hanno negato con una lettera molto articolata. Però insomma poi alla fine diceva in sostanza caro utente paga il pedaggio e non chiedere altro. Direi che la è una, come dire, è stata una, secondo me una trappola, perché pensare di dire che ti rimborso innanzitutto riduce la platea enormemente, perché puoi capire chi ha tenuto lo scontrino, chi ha tenuto la dimostrazione. Addirittura arriviamo a ipotesi come quelle che ma quel giorno sì, l'altro no. Ecco, direi che è arrivato il momento di fare pulizia, ecco, non solo di chiedere una foto di chi l'ha visto il rimborso. Cioè, io vorrei avviare un concorso su chi ha visto il rimborso di Società Autostrade per la tratta, ci mandi una foto, lo raddoppieremo subito come Assoutenti. Ma al di là di chi ha visto il rimborso, il tema vero è passare immediatamente alla gratuità, perché il disagio continua, cioè lo sanno anche i sassi, soprattutto chi ci passa, che nel tratto Pescara Porto San delle Marche, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, esatto, sì. Da dove diciamo sono state sequestrate le corsie per la questione delle sponde, si viaggia a una corsia e quindi c'è un disagio enorme. Allora, aspetti Presidente Truzzi, perché in questo momento noi dobbiamo aggiornare gli ascoltatori sull'andamento dei mercati finanziari, però raccogliamo anche un po' il suo invito. Qualcuno è riuscito a ottenere qualcosa, nonostante insomma i pochi giorni trascorsi tra l'annuncio di Autostrade e no? Se c'è riuscito ce lo dica, 800 24 00 24, oppure se preferisce un messaggio, un WhatsApp, 349 238 6666, tutto ciò premesso, cara Debora, sì. Le borse. Tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricconi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia? Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con i Nespresso White Days puoi avere la macchina Inissia e 100 capsule di caffè a soli 69 euro fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso, what else? Che fastidio questa tosse. Tesoro, ho io un rimedio. Corifin. Corifin pastiglie con vitamina C allevia l'irritazione della gola e riduce il catarro. Anche nei fumatori. Ah, grazie nonna. Grazie Corifin. Corifin pastiglie a base di mentolo, etilglicolato e vitamina C. È un medicinale, non somministrare a bambini di età inferiore a 30 mesi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Lo sai, ho un'auto nuova, un nuovo contratto di telefonia, una nuova banca e presto farò una vacanza da sogno. Hai vinto la lotteria? No, mi sono associato a Confcommercio. Tanti servizi e condizioni vantaggiose per farmi risparmiare e rendere la mia impresa più competitiva. Vai su associati.confcommercio.it. Confcommercio, tua, sua, di tutti. Due di denari. Buongiorno ragazzi, vorrei sapere cosa c'entra il giudice di Avellino per bloccare la 14, i viadotti, e invece di bloccarli perché non da, diciamo, obbliga a fare un controllo, eventualmente metterla a posto invece di bloccare le strade. E poi all'uscita di una galleria all'altezza zona di Ancona c'è subito la riduzione della carreggiata, che è pericolosissimo. Come dal salumiere pago il peso effettivo del prosciutto acquistato, in autostrada devo pagare il pedaggio effettivo dell'autostrada utilizzata. Se si restringe una carreggiata, propone un ascoltatore, non è più autostrada, per quei chilometri non devo pagare nulla. Maurizio, ricordiamo cosa è successo, perché c'è stato questo intervento del giudice per le indagini preliminari di Avellino sulla scia di un grave incidente avvenuto qualche tempo fa. Qui parliamo di 40 persone morte il 28 luglio del 2013 precipitando da un viadotto appunto vicino Avellino. La procura di Avellino, dopo questo episodio, non solo ha portato avanti il processo per questa strage, che ha già arrivato a condanne in primo grado che hanno riguardato per ora sul fronte autostrade solo i responsabili locali, ma la procura insisterà in appello, sta insistendo, è cominciato adesso l'appello per far condannare anche i vertici di allora di autostrade. Allora, dopo di questo, la procura di Avellino è andata a controllare tutte le altre barriere uguali a quelle che ha ceduto quando sono morte queste 40 persone. E la domanda dell'ascoltatore io me la farei in un altro modo, me la farei al contrario, cioè come mai tante altre procure non si sono mosse? Avellino ha fatto un lavoro, devo dire, meritorio, con pochissimi mezzi. Giuridicamente lo può fare perché si tratta dello stesso reato che viene ipotizzato. Siccome per la prima volta viene commesso, è stato accertato ad Avellino può andare su tutta la rete, e meno male che ha fatto, insomma, si è mossa dal punto di vista della sicurezza degli utenti. Ricordo che l'aveva fatto anche Firenze nel 2014, ma su un tratto che stava per essere riqualificato, quindi i sequestri sono stati tolti. Il problema vero è come mai la società si è incaponita per anni a non riconoscere che le modifiche alle barriere che aveva fatto così un po' a risparmio dopo la strage del 2013, si è incaponita nel dimostrare che queste modifiche non erano soltanto migliorative delle barriere, mentre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è il massimo organo tecnico italiano, gliel'ha bocciate più volte. Quindi questo è il vero tema. Tutto il resto sul ruolo della magistratura su questa vicenda mi pare francamente fuori luogo. Ma allora, Truzzi, qui ci sarebbe, diciamo, proprio di tutto per chiedere quantomeno i rimborsi, ma in via permanente. Perché... è quella la nostra idea, è proprio quella, cioè non di passare al rimborso, ma di passare da subito, da ieri, ovviamente non si può da domani, e quindi un appello che lancio dalla vostra radio e che poi formalizzeremo con lettere urgenti al Ministro, che intervenga su Società Autostrade, perché l'incaponimento di fronte ai giudici se lo paghi lei e non lo faccia pagare agli utenti che con una carreggiata si trovino in una condizione di invivibilità in quel tratto e che quindi deve essere derubricato e cioè reso gratuito. È stato fatto per il Ponte Morandi, io vengo da Genova, so bene che cosa ha voluto dire, e quindi in tutta l'area genovese non si viaggia più a pagamento proprio in conseguenza di quell'episodio gravissimo, ma altrettanto chiaro sui problemi della circolazione, perché basta vedere cosa succede nelle statali dell'Adriatica vicino ai tratti interessati, cioè Silvi Marina che si è trasformata in un serpente di tiro e così via, e quindi da un lato la gratuità, perché è il solo modo, il rimborso abbiamo visto è una pratica aleatoria, areiforme, non dà all'utente, poi l'utente dopo il disagio della coda deve anche fare domande di rimborso, ma per piacere. Ecco, qualche ascoltatore ci dice, parlate dell'A14, non ci dite niente della questione Ligure piemontese, verrebbe da dire. No. Che è un altro punto, lei adesso ha appunto parlato della strage, della disgrazia del Ponte Morandi, e lì però abbiamo anche lì dei problemi, come dire, di vetustà forse il patrimonio. Lei mi dà la palla gol, perché il tema, l'Adriatica ovviamente è il fatto del giorno, ma non dimentichiamolo, ricordate voi la Liguria, le sofferenze di una regione che praticamente è sempre più isolata, e a questo punto il tema è una norma generale, dovrebbe essere fatta una modifica urgente alla carta dei servizi di autostrade, dove si dice che quando il servizio scende al di sotto di un determinato standard il pedaggio è gratuito, cioè mi sembra normale. Ecco, gli extra profitti fatti in questi anni consentono questa scelta, che è anche una scelta di civiltà, perché è un rispetto per l'utenza, e qui ci vuole appunto un intervento deciso del Ministero, perché so che Autostrade in altri termini è stata sensibile su certe cose, come dicevo l'ha dimostrato nella tratta di Genova, dove ancora oggi se uno va da Nervi a Voltri viaggia gratis dentro il perimetro. Ma detto ciò, ci vuole questa sensibilità immediata per gli abruzzesi, per i marchigiani, per tutti quelli che fanno l'Adriatico, per i Liguri, ma per tutti quelli che si trovano in un'autostrada che non è più tale, che non funziona, certo. Da stupido. Giulio da Ponza ci scrive, io non voglio rimborso o un'autostrada gratuita, la voglio sicura, e questo mi pare un messaggio conclusivo di tutti questi commenti che stiamo facendo questa mattina, significativo e giusto. Esatto. Ma voglio dire, io voglio un'autostrada sicura che in attesa che lo diventi sia gratuita, e se è sicura e gratuita ancora meglio. Sull'autostrada sicura, se il ministro spostasse con una tenda il suo quartier generale sull'Adriatica, magari facendo intervenire anche il genio civile, perché al di là dell'incaponimento di autostrade c'è un'emergenza infrastrutturale straordinaria, di cui quello è l'emblema, e quindi è chiaro che la sicurezza prima di tutto, ma non vorrei mai che in attesa, no, del famoso danno alla salute, intanto non ti pago, la salute non si monetizza, però intanto mi ammazzi. Allora, mi sono d'accordo sulla sicurezza, il messaggio conclusivo, ma un'autostrada sicura gratuita è sicuramente la sintesi vera che vorrei fare io, ecco. Allora Tulsi, noi sappiamo che lei ci deve lasciare dopo le nostre informazioni sulla viabilità, torneremo però nell'ultima parte di Due di Denari questa mattina con Maurizio Caprino a parlare appunto anche dello stato complessivo della sicurezza delle nostre infrastrutture, perché stanno emergendo oramai anche per questioni proprio così, gli anni sono passati, gli anni di costruzione, in molti casi stiamo ragionando di opere che hanno 30, 40, 50 anni, e chiaramente la manutenzione diventa centrale, diventa anche importante, è una cosa che dobbiamo naturalmente pretendere. Grazie a Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Ascolterò Caprino anch'io, perché sono interessatissimo al tema. E allora noi adesso andiamo ad ascoltare le informazioni sul traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a 2didenari@radio24.it. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020 The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Due di denari. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. Nella macchina. Beh, allora, in questi giorni in molte città d'Italia ce ne stanno molti meno perché ferma appunto la circolazione per questioni di inquinamento ambientale. Le abbiamo detto più volte nel corso dei nostri giornali radio. Non abbiamo completato il ragionamento sugli indennizi agli intrappolati dell'A14 perché Maurizio ci ha portato un'informazione di primissima mano. Allora, è il fatto che oggi Autostrade per l'Italia valuta la possibilità di estendere gli sconti o rimborsi, quello che sarà, se sarà, anche ad altre giornate, in particolare alle giornate precedenti il controesodo di Natale, quindi quando la gente sotto Natale stava scendendo al sud e era poco informata, si era informata poco la gente, un po' l'avevano informata poco, diciamo così, e quindi un po' siamo abituati a fare queste code chilometriche in certi momenti dell'anno, ovviamente, quindi forse non diamo neanche tanto peso magari. Stavolta però abbiamo un po' esagerato, sì. E quindi adesso stanno valutando, speriamo oggi di dare una buona notizia, almeno oggi. Allora, il punto è, e ce lo stava sollevando un ascoltatore di cui abbiamo sentito nel corso della pausa il messaggio vocale su WhatsApp: chi ha il telepass deve dare dimostrazione appunto di aver percorso un determinato tratto, ma lì forse dovrebbe essere anche più facile, no? Un eventuale indennizzo è più facile, tant'è che tra le cose che si stanno valutando c'è anche il fatto di concedere una gratuità o uno sconto, anzi un'esenzione, agli utilizzatori abituali, ai cosiddetti pendolari, ma anche, vorrei dire, anche ai furgoncini, insomma tutti quelli con i veicoli leggeri che utilizzano quel tratto di autostrada fra Abruzzo e Marche frequentemente, allora avranno un'esenzione se muniti appunto di telepass, e questa cosa sarà sostanzialmente automatica, non ci saranno problemi da questo punto di vista. Allora, quale altro argomento vuoi introdurre? No, volevo ritornare per un minuto davvero sul problema della vetustà delle infrastrutture e quindi del problema della sicurezza, perché mi pare un punto centrale. Il Ponte Morandi è stato una tragedia di proporzioni immani, direi a livello mondiale questa volta, ma non sto facendo... Abbiamo fatto una figuraccia a livello mondiale. Tra l'altro, però sappiamo che c'è un problema generalizzato anche sulle strade, non sulle autostrade, ma anche sulle strade locali. E un po' tutta la rete, nel senso che l'Italia ha il vanto di essersi dotata fra i primi paesi di una rete stradale e autostradale piuttosto estesa. Adesso ne paghiamo lo scotto perché un po' non l'abbiamo manutenuta, un po' è diventata vecchia, un po' anche proprio le tecniche sono diventate diverse. Per esempio la A6 Torino-Savona, su cui peraltro è crollato il viadotto Madonna del Monte per una frana, però insomma si sta scoprendo man mano che questa autostrada ha delle strutture che oggi richiedono delle pesanti modifiche, quindi è un po' tutto che va ridiscusso. Probabilmente sia i gestori sia il governo hanno voluto mettere da parte, sotto il tappeto, questo problema, cioè lì praticamente si sarebbe dovuto già pianificare una ricostruzione di determinate autostrade o di determinate opere. Anche le gallerie sono un altro bubone che sta scoppiando in questo periodo, però siccome questo significherebbe aumentare i pedaggi, sono stati tutti zitti, diciamo, di comune accordo. Adesso però bisogna rifare i piani finanziari e voglio capire come verranno rifatti. Il governo parla di sconto sui pedaggi in alternativa alla revoca ad Autostrade per l'Italia, però questo sconto potrebbe anche tradursi nel fatto che i pedaggi non aumentano proprio per finanziare queste opere straordinarie che finalmente tutti prendiamo atto essere necessarie, ma nel giro degli addetti ai lavori questa cosa è nota da decenni. Allora, andiamo allo stop alla circolazione in alcune città d'Italia di questi giorni, pochissimi minuti per anticipare questi argomenti e magari ne faremo tema per un'intera puntata prossimamente. Eco bonus 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che sono già a disposizione dal 2 gennaio. Come funzionano, Maurizio, questi incentivi per auto e moto elettriche? Allora, per quanto riguarda le auto, noi abbiamo degli incentivi che riguardano gli acquisti di motori, di modelli elettrici e ibridi plug-in, nel senso che dobbiamo stare, allora, quelli elettrici che sono con emissioni di CO2 non superiori a 20 grammi chilometri, chilometro, chiedo scusa, dando diritto a 6.000 euro in caso di rottamazione e 4.000 in caso senza rottamazione. Invece dai 21 ai 70, che corrisponde più o meno agli ibridi plug-in, quindi gli ibridi in grado di percorrere qualche chilometro, al massimo poche decine di chilometri in modalità totalmente elettrica, queste cifre diventano di 2.500 euro in caso di rottamazione e 1.500 euro in caso invece che non ci sia la rottamazione. Quanto alle moto, sono moto e motorini, le moto non devono avere più di... Non tricicli? No, quelli no, li hanno esclusi, esatto, però esistono, esiste anche qualche triciclo elettrico. In ogni caso, ecco, lì c'è c'è l'obbligo per forza assolutamente di rottamazione. È una misura che è stata ripescata all'ultimo momento perché sarebbe scaduta al 31 di dicembre 2019 il mille proroghe, quindi che è in corso di conversione, autorizza una spesa di 8 milioni di euro e sono tutti i soldi avanzati dall'anno scorso, quando vari problemi hanno portato a una scarsa fruizione di questo bonus. Però questo per le moto, i motorini, quindi ciclomotori eccetera, vale soltanto, diciamo, il bonus, lo sconto vale solo se si rottama un mezzo. Solo se si rottama un mezzo analogo, mi viene analogo da pensare. È intestato da almeno 12 mesi al fruitore del bonus. Tra l'altro il bonus viene erogato direttamente contestualmente all'acquisto, Maurizio, sì. Quindi non ci dobbiamo preoccupare di nulla. Assolutamente di nulla, sarà poi il venditore a compensare con le sue imposte, se la vede lui con l'Agenzia delle Entrate. Insomma. Senti, un minuto di tempo per chiarire le dinamiche di questo bollo e il versamento da fare. Allora, sì. Come dobbiamo pagare il bollo quest'anno? Esattamente come lo abbiamo fatto fino adesso, semplicemente tutti i punti di esazione sono confluiti nel pago PA. Questo ha un risvolto interessante soprattutto per le regioni, nel senso che i soldi finiscono direttamente nel conto della regione destinataria, mentre prima si facevano le cosiddette compensazioni, che erano un po' un mercato delle vacche, diciamolo pure, fra le regioni. Il problema vero riguarda le flotte a noleggio, perché e anche in leasing, nel senso che si è stabilito sempre con la legge di bilancio che i soldi in questo caso devono andare non alla regione in cui risiede il proprietario del veicolo, che è l'operatore di leasing o di noleggio, e stavano tutti a Trento e a Bolzano per godere di facilitazioni, devono andare invece alla regione dell'utilizzatore del mezzo. Questo comporta una serie di problemi anche proprio di gestione burocratica, sono in corso trattative proprio in queste settimane, sono curioso di sapere come va a finire, ve lo racconterò. Sì, pure noi, guarda, e quindi dovremmo tornare su tutti questi argomenti. Direi che, come direbbero i giuristi, cara Deborah, noi siamo riusciti solo a delibare alcuni alcuni elementi dei tanti che affollano la nostra vita di automobilisti, contribuenti in quanto automobilisti, utenti della strada, utenti delle infrastrutture. E allora mettiamo tutto in agenda naturalmente e vi divertiremo un po' nelle prossime settimane con questi argomenti. Maurizio, grazie per essere stato con noi ancora una volta. E domani parliamo di lavoro. Domani parliamo di lavoro, di quelli un po' vecchiotti come noi, gli over 50. Oh mamma, allora vengo col blocco degli appunti. Buona giornata.